Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, la nostra rubrica in cui prendiamo le cose più interessanti, più curiose, più nuove che ci capita di vedere sui settimanali italiani e non solo italiani. 19 dicembre, tempo di regali, si avvicina il tempo dei regali di Natale, del Natale. Su Donna Moderna questa settimana una iniziativa particolarmente gradita in questo periodo: come evitare una gaffe se si riceve un regalo che non piace. Della cosa si occupano nella rubrica I ritmi della mente, che è una delle rubriche fisse di Donna Moderna, sia Maurizio Ferraris, che è un docente di filosofia teoretica a Torino, sia Roberto Re, che fa di mestiere il personal coach, cioè di fatto aiuta le persone a uscire dalle situazioni un po' complicate, autore di libri del tipo Smettila di incasinarti o Leader di te stesso. E da una parte appunto l'approccio di Ferraris, un approccio più distaccato, e dall'altra l'approccio di Roberto Re, un po' più pratico. Ferraris dice: si dice malevolmente che si regalano le stesse cose che piacciono a noi, solo un po' più brutte. Beh, non è un pensiero molto natalizio, però forse c'è del vero. Però supponiamo che siano belle. C'è una qualche garanzia, si chiede Ferraris, che possano piacere agli altri? No, lo afferma uno che ha la consapevolezza di sbagliare tutti i regali o di azzeccarli solo per ragioni fortuiti. La consolazione, dice Ferraris, è che però anche amici e parenti si sbagliano e quindi siamo pari, e pensare a questo è un buon motivo per essere indulgenti nei confronti dei regali sballatissimi che si ricevono. Si tratta di apprezzare, come si dice, la generosità, lo sperpero, persino la scemenza, talvolta a fin di bene, che stanno dietro al regalo. Ma se il consiglio di Maurizio Ferraris è appunto di tipo più generale, dice tutti sbagliamo, quindi alla fine qualche regalo lo sbagliamo noi, qualche regalo lo sbaglia chi ce lo fa, interessante l'approccio invece pratico di Roberto Re. Roberto dice: a meno che tu non voglia essere così schietto e anche un po' insensibile da dire chiaramente grazie, ma proprio non mi piace, una frase che indubbiamente specie a Natale si fa molta fatica a pronunciare, quando ricevi un regalo non gradito l'unica strategia è mentire. C'è un problema però: per quanto bravo tu possa essere, quando dici una bugia inevitabilmente comunichi un'incongruenza con le parole, il tono di voce, il linguaggio non verbale. Quindi insomma, anche se diciamo che ci piace, magari poi è evidente che quel regalo non è affatto gradito. Considerato quindi che fingere un'emozione è difficile, la cosa migliore che puoi fare è viverla veramente. In che modo? Prima di tutto dai valore alla dimostrazione di affetto, e qui il consiglio somiglia un po' a quello di Ferraris. Non puoi essere contento se pensi a quanto è brutto il regalo appena ricevuto. L'ideale è porre l'attenzione sul pensiero e la gentilezza dell'altra persona. Se ci pensi, è esattamente quello che fai quando ricevi un regalo da un bambino. Se tuo figlio ti mette in mano uno scarabocchio disegnato su un foglio stropicciato, ti senti comunque felice e ti commuovi, perché non pensi al valore o alla qualità del dono, ma allo spirito con il quale il bimbo lo ha fatto. Ti ha dimostrato che per lui sei importante e che ti vuole bene. Comportati allo stesso modo con gli adulti e risolverai quindi il problema, cioè guardare il pensiero. Ma qui la frase molto nota è analizzata un po' più nel dettaglio. E poi un consiglio molto molto pratico: usa le parole giuste per dire la verità. Nel dimostrare gratitudine, è il consiglio di Roberto Re, sostituisci un falso "oh, è bellissimo", che sarebbe facilmente smascherabile, con un "grazie, sei stato gentilissimo", o meglio ancora con un "che pensiero carino". In fondo queste frasi dicono esattamente la verità, non costringono a fingere e quindi evitano, o mi viene da correggere, forse riducono molto il pericolo di essere sbugiardato. E allora, visto che parliamo di regali, vi segnalo un'iniziativa interessante che ho visto segnalata da Famiglia Cristiana questa settimana. I giocattoli nascono, vivono, anzi vengono vissuti, quando lo sembrano troppo qualcuno li butta via. A volte anche molto prima, semplicemente perché si è stanchi, perché ne arrivano di nuovi, perché non c'è più spazio. Errore, avvisa Famiglia Cristiana: i giocattoli buttati inquinano. I giocattoli riciclati invece rivivono, diventano rigiocattoli. Bastano dei piccoli ritocchi. Volete una prova? Andate il 19, oggi, e il 20 dicembre in Piazza San Carlo a Milano, ma anche a Genova, Catania e in tante altre altre città. Siamo alle ultime tappe, spiegano, di questa iniziativa Rigiocattoli, ma si fa ancora tempo. Se volete sapere esattamente in quali città e dove si fa l'iniziativa di raccogliere i giocattoli usati, giocattoli da far rivivere, potete andare sul sito della comunità di Sant'Egidio, che è http://www.santegidio.org, e lì trovate appunto l'iniziativa Rigiocattolo 2009. Ripeto, oggi e domani ci sono dei punti di raccolta, troverete lì, spiega infatti Famiglia Cristiana, una marea di giocattoli contenti di rivivere e far felici anche le mamme che vengono sostenute in questo modo da un progetto appunto della comunità di Sant'Egidio. Oggi e domani in molte piazze italiane sul sito della comunità di Sant'Egidio trovate tutti gli indirizzi. Torniamo un attimo a Donna Moderna, perché su questo numero c'è una particolare inchiesta davvero su un comportamento quotidiano che affligge un po' noi tutti, dal nostro inviato speciale in una fila, cioè fare la fila. Come facciamo e quanta fila facciamo tutti gli anni, ogni anno, ogni giorno della nostra vita? Ecco, che cosa si sono inventati, cosa si è inventato Marco Managò, che è il giornalista che ha proprio dedicato un libro al fenomeno degli italiani in fila. È andato a vedere quanto educatamente o meno siamo capaci di stare in fila e perché, se siamo capaci di stare in fila, riusciamo a essere magari più educati in alcune circostanze e meno in altre. Innanzitutto qualche numero, perché è interessante sapere che ogni anno passiamo mediamente 400 ore in coda. Alla posta, in auto, a una mostra o per fare shopping. Come si comportano gli italiani quando devono stare in riga? Come ci comportiamo? Beh, non così male, sembra di cogliere dal risultato delle rilevazioni di Managò. Dice il dato medio innanzitutto delle 400 ore, spiega Managò, tiene conto di tutte le file, cioè quelle che facciamo negli uffici pubblici, quelle che facciamo in auto, quelle che facciamo anche in ambito domestico, ad esempio che si tratti di prendere l'ascensore o di aspettare semplicemente che si liberi il bagno. Poi ci sono quelle che si fanno per i saldi e in questo periodo appunto in certi negozi è capitato di dover fare la fila per entrare anche non in periodo di saldo, per partecipare a un evento, naturalmente per vedere una mostra. Gli italiani hanno imparato davvero a mettersi in coda. Siamo andati a verificare sul campo, spiega Nanni Del Becchi, sfruttando condizioni sulla carta ideali, sabato prenatalizio nel centro di Milano, un giorno come oggi. Siamo partiti dall'esempio più classico, da che coda è coda, la fila alle poste. La fila alle poste, spiega Del Becchi, in realtà è quasi scomparsa grazie ai dispenser, sono quelle macchinette che distribuiscono un numero progressivo ed evitano ogni contestazione. In realtà almeno dovrebbero, perché invece spesso di contestazioni, e le riferisce Del Becchi, ci sono. Molto più ordinata la fila per entrare nelle mostre e negli eventi culturali. E tutto sommato ordinata, e questa è una notizia interessante, la fila per entrare in un negozio di particolare tendenza. La ressa c'è, la coda per entrare non manca, ma tutto sommato è quasi un'ottima occasione per mettersi in mostra, quasi una prova tecnica di passerella, quindi far vedere che si è in fila davanti al negozio di moda. È tutto sommato anche un'occasione anche per fare conoscenze. Divertente la conclusione dell'articolo di Del Becchi, in cui si riferisce che un signore che aveva colto durante la mattinata a lamentarsi molto della fila alle poste era ancora lì nel pomeriggio, perché in realtà poi confessa: abito vicino, vengo qui spesso, qui la gente deve aspettare per forza, e così ha finalmente voglia di parlare, e qui la fila raggiunge un po' il suo scopo anche sociale. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando dell'abitudine a stare in fila o del dover stare in fila, come più spesso ci capita, se ne è occupata Donna Moderna. Giorgio Bocca sull'Espresso invece questa settimana si è occupato di un altro uso dilagante che sempre più pervade la nostra vita quotidiana, cioè l'uso dell'inglese o comunque di parole straniere, talvolta anche a sproposito. La questione coglie poi noi giornalisti un po' più sensibili, perché spesso facciamo uso di qualche termine magari derivato da altre lingue che non viene spiegato adeguatamente ai lettori, e infatti è quello che muove un po' l'articolo di Bocca, che comincia proprio così: dalla lettura dei giornali italiani, dall'ascolto delle televisioni televisioni risulta che chi non conosce la lingua inglese o francese non capisce una notevole parte di ciò che c'è scritto e di ciò che viene detto. In pratica non c'è un articolo o una notizia che non contenga parole straniere, spessissimo presenti nei titoli e negli annunci. Verrebbe da correggere, anche nelle pubblicità si fa sempre più uso oramai di parole straniere. Si aggiunga il fatto, però, documentato da una trasmissione popolare come Il Grande Fratello, che molti dei lettori e degli spettatori non conoscono nemmeno la lingua italiana, nemmeno i protagonisti della politica italiana. Ricorderete il test appunto scherzoso che era stato fatto per i concorrenti del Grande Fratello, e pensano che il Presidente della Repubblica sia Berlusconi, che la capitale d'Inghilterra sia Londra, ma scritta con l'apostrofo L apostrofo Ondra, appunto. Allora, che effetto ha questo imbarbarimento della lingua e complessivamente direi anche delle attenzioni alle questioni pubbliche? Che alcuni italiani tornano ai dialetti o li rimpiangono, molti non si sentono più padroni né dei dialetti né della lingua, quindi hanno ridotto un po' il vocabolario, vedi quello che succede in molte interviste a campioni dello sport, a una decina di frasi fatte di pseudoconcetti che vengono poi ripetuti all'infinito. Qui gli pseudoconcetti, Bocca cita la forza del gruppo, siamo concentrati, dobbiamo ancora lavorare, al che giustamente dal pubblico partono voci di irrisione. Ecco, però alcune delle parole straniere che usiamo con così tanta frequenza potrebbero essere diventate comprensibili a tutti, si chiede Bocca. In realtà nessuno lo sa di preciso, può darsi che alcune, che sono le più note, come killer, mister, premier o manager, siano effettivamente comprensibili ai più, ma viste appunto le risposte dei partecipanti al Grande Fratello o in generale un po' l'impoverimento del vocabolario, potremmo avere delle sorprese, scoprire che il mare della nostra ignoranza è più vasto del globo terrestre. Ma la cosa più curiosa a questo punto è che allora le parole straniere diventino di comune uso giornalistico e televisivo. E a questo punto Bocca pone anche delle domande un po' provocatorie, dice: ma perché dobbiamo parlare di annunci di svendite stagionali o di viaggi economici con il termine di low cost, quindi prelevando due parole direttamente dall'inglese? Intendiamoci, la lingua usata dai giornali, dalla radio, dalla TV, argomenta Bocca, non può essere in ogni caso popolare e comprensibile da tutti. Ci sono degli argomenti che inevitabilmente richiedono dei termini più appropriati, più adeguati, ma a talvolta si scade un po', per pigrizia più spesso, e si utilizzano, o per esotismo, si utilizzano dei termini stranieri anche laddove non ce ne sarebbe bisogno. E qui lui fa il caso di una nota pubblicità di una marca di caffè. Dice che l'attore Clooney venga usato per pubblicizzare una macchinetta di caffè, si capisce, è un attore famoso e simpatico, ma che nella didascalia sotto la sua immagine venga scritto "what else", allora questo è puro snobismo di pubblicitari. Questa la considerazione di Bocca, che quindi invita a un uso, se non altro, più ragionevole e ragionato delle parole straniere quando scriviamo o parliamo in italiano. Visto che le considerazioni di Bocca ci portano in qualche modo all'estero con il suo uso delle parole straniere a proposito o più spesso a sproposito, due segnalazioni dall'Economist. In Francia c'è molto dibattito su un tema che aveva scaldato anche da noi gli animi qualche anno fa. Si sta discutendo di una riforma degli insegnamenti superiori e l'idea è di eliminare una parte delle ore di storia negli ultimi anni del corso. In realtà poi, come spiega lo stesso Economist, non è che si perderebbero complessivamente ore, ma si perderebbero ore nell'ultimo anno, appunto negli ultimi anni. E questo ha sollevato, nonostante appunto il cercare di bilanciare, con uno spostamento di tempi le ore di lezione complessivamente dedicate alla storia, però ha sollevato subito una resistenza molto forte da parte dei professori, degli intellettuali, degli stessi studenti in Francia. E la cosa ha colpito perché Sarkozy, come ricorda lo stesso Economist, è una persona molto attenta alla storia, specialmente alla storia contemporanea, tanto da avere più volte chiesto di inserire anche casi, eventi delle recenti vicende del Novecento nell'insegnamento della storia. E nonostante questo, però, appunto, il suo progetto fa molto discutere. Un altro parallelo con quello che sta succedendo in Italia, per segnalare che anche all'estero vi sono spesso vicende analoghe. La Spagna sta impazzendo per le lotterie, per una particolare lotteria che si chiama El Gordo. El Gordo significa in spagnolo il grasso. Grasso è riferito al premio, perché il premio è molto molto alto, più dei nostri milioni, dei 110 milioni di euro del nostro jackpot più alto. E gli spagnoli stanno impazzendo per questa El Gordo, che consente anche di comprare biglietti sia da 200 euro sia da 20 euro. E la cosa è diventata così di massa, riferisce appunto l'Economist, che in previsione del Natale è diventato sempre più comune regalarsi l'un l'altro dei biglietti di questa lotteria. Una lotteria quindi che ha avuto molto successo, e in Spagna questo ha fatto particolarmente rumore, perché gli spagnoli non sono noti come un popolo di forti scommettitori. Risultano spendere a testa sotto la media della Unione Europea, laddove invece, come sappiamo, gli italiani sono un popolo che più ama scommettere e ama questo tipo di giochi e lotterie. E allora chiudiamo con un altro numero, un numero che ci viene consigliato da Loretta Napoleoni. Loretta Napoleoni è un economista, ma sul venerdì questa settimana consigliava un indice particolare per misurare se uno stato è in crisi oppure no, l'indice del vino. Perché? Perché risulta che la Cina sia ormai diventata il quinto consumatore di vino al mondo. Sta per sorpassare la Germania. Germania, che peraltro da quando è scoppiata la crisi del credito è tornata ai boccali di birra. I cinesi bevono principalmente vino locale, ma da qualche anno vanno forti anche le bottiglie di importazione francesi, australiane e italiane. Quindi consiglia la Napoleoni, un po' scherzosamente, un po' provocatoriamente, si potrebbe utilizzare l'indice del vino come indicatore della capacità di un paese nel gestire le conseguenze della recessione. Se non altro, un indice sicuramente gradevole. E con questa segnalazione si conclude la puntata di Magazine 24. Io ringrazio Carmelo Lauricella, che mi ha assistito in regia, Vittoria Mussini e Emanuela Sicuro, che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Ci sentiamo sabato prossimo, quando sarà già passato Natale, e quindi vi faccio i miei migliori auguri.